te ne sbatti la porta. Parlo e la voce si strozza. Metti alla gola, mettimi l'ansia che avevo quando mi hai lasciato. Stronza, ci scriverò un altro verso. Ora cambio l'universo. Sono un umano e da tale io posso cambiare le storie di un destino certo. Gira che rigira, so che mi tiene le colpi di chi non è buono a mantenere le parole date poi ridate delle volte quando faccio puttanate. Prendi tutto seriamente mentre sai che non dovresti. Già lo so che delle volte pure tu mi pensi. Già lo so che delle volte pure tu ti penti. Già lo so che fossi solo un poco meno forte, con un solo sguardo ed un sorriso mi conquisteresti. Oh, resti seduta nel letto, chiusa in camera. Ti piace baciarmi, avermi e poi strapparmi l'anima. L'amore e la vita sono lezioni a scuola, dove vengo ribocciato sia nella teoria che pratica. È un amore maledetto che ci batte in petto, no no. Grida che mi ami ancora e dopo ancora no no. Odio e t'amo, ritorni, scappiamo. Mi sogni solamente quando ti sono lontano. Pensavo che fosse l'amore quel gioco di baci, di graffi, di schiaffi e sudore. Che ore per ore teneva il mio cuore stretto tra le unghie di te giocatore. Se penso alle cose che ho fatto, a quanto sono uscito di matto. Se penso che ho usato ogni singolo abbraccio per farmi del male, lo sai, ti ringrazio. Ho capito lo sbaglio, l'abbaglio. Se adesso ti parlo ti sgamo lo sguardo. Non fotti, non tocchi, non sfiori, perché se ci provi lo sai che ti ghiaccio. Dici che mi ami però è tutto falso. Dico che ti amo ma sono un bastardo. Sono cambiato, uso il mio ruolo. Amo che ti odio e ora ti inganno. È un amore maledetto che ci batte in petto, no no. Grida che mi ami ancora e dopo ancora no no. Odio e t'amo, ritorni, scappiamo. Mi sogni solamente quando ti sono lontano. È un amore maledetto che ci batte in petto, no no. Grida che mi ami ancora e dopo ancora no no. Odio e t'amo, ritorni, scappiamo. Mi sogni solamente quando ti sono lontano.